Abbiamo citato, all'inizio del capitolo, la fonderia dove il Gian Bologna fuse la statua del Nettuno. Si trovava nel lato occidentale dell'attuale piazza Galvani, a ridosso dell'abside di San Petronio, dove un tempo c'era la fabbriceria della Basilica. Oggi quella fonderia non esiste più, ma al suo posto c'è una lapide che recita: «In queste case della fabbriceria di San Petronio, in una grande stanza a piano terra, Michelangelo nel 1506 fuse la statua di Giulio II, il Gian Bologna nel 1564 fuse il Nettuno, Menganti nel 1580 fuse la statua di Gregorio XIII». Se conosciamo sia la statua del Gian Bologna che quella del Menganti, che fine ha fatto la statua di Giulio II realizzata da Michelangelo? Tanto per cominciare, si tratta di una delle uniche due statue in bronzo mai realizzate da Michelangelo. L'altra è il David de Rohan. Purtroppo, entrambe sono andate perdute. Ma andiamo con ordine. Per ricostruire le vicissitudini della statua di Giulio II, dobbiamo risalire al 1506, anno in cui il Papa Guerriero entrò a Bologna dopo aver costretto all'esilio Giovanni II Bentivoglio. Dopo aver ordinato la distruzione della Domus Aurea, ricordate? Giulio II chiamò Michelangelo a Bologna perché fondesse una statua in suo onore da posizionare sul portale della Basilica di San Petronio. Per realizzarla, come supremo gesto di spregio verso i nemici sconfitti, all'artista fu chiesto di utilizzare il bronzo della campana della torre di Palazzo Bentivoglio. La statua doveva essere di almeno 3 metri di altezza, ritraendo il Papa in posizione seduta con la mano destra benedicente. Si racconta che Michelangelo abbia chiesto al Papa se nella sinistra voleva un libro e che alla domanda il pontefice abbia risposto sdegnato: «Ma che libro? Mi tratti come uno scolaro? Io voglio una spada!» Così Michelangelo realizzò una statua che alla città di Bologna donasse «Minaccia, Padre Santo, se questo popolo non è savio!» Una statua di cui oggi non rimangono nemmeno i bozzetti di studio. Il Giulio II benedicente venne infatti posizionato in una nicchia sulla cima della Porta Magna di San Petronio il 21 febbraio 1508, per essere tirato giù solo 3 anni dopo, l'11 dicembre 1511, con il temporaneo rientro dei Bentivoglio in città. In quell'occasione, durante le operazioni di rimozione, la statua venne accidentalmente distrutta. Così i pezzi furono venduti al duca di Ferrara, Alfonso d'Este, che li utilizzò per fondere un cannone di piccolo calibro, una colubrina, che chiamò ironicamente la Giulia. Scrisse un cronista dell'epoca: «Ne fe una grande bombarda che poi drizzò nel castello de riscontro la porta di esso, che io non ho mai veduto la più lunga e grossa de quella». La Giulia era in grado di sparare proiettili da 50 libbre, al pari delle artiglierie francesi di Carlo VIII, le più all'avanguardia dell'epoca. Vale la pena ricordare che Alfonso d'Este fu uno dei più accesi avversari dello Stato Pontificio, raggiungendo il singolare primato di essere scomunicato da ben 3 papi, Giulio II, Leone X e Clemente VII. Soprattutto era così esperto in fonderia e armi da fuoco da essere soprannominato il Duca Artigliere. Grazie alle sue abilità tattiche, nella sua carriera bellica riuscì nell'impresa di battere la flotta navale veneziana con un esercito di terra. Durante la battaglia di Polesella, infatti, attese che la piena del Po sollevasse le navi della Serenissima fino alla linea di tiro dei suoi cannoni, per poi tempestarle con una pioggia di fuoco che ne affondò la maggior parte. Inizialmente collocata nel castello di Ferrara, la Giulia venne forse utilizzata dai Lanzichenecchi durante l'assedio a Roma. Spostata poi a Reggio Emilia per rafforzarne le difese, se ne perdono le tracce negli inventari a partire dal 1625. È probabile che sia stata fusa dall'esercito napoleonico sul finire del Settecento, al pari di molti altri pezzi d'artiglieria rinascimentali. Felsina pittrice.